Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Essere e avere, di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. È di qualche giorno fa l'annuncio di Prada sulla forte ripresa delle vendite in Cina, dove il gruppo del lusso ha già superato, pensate, i livelli dello scorso anno. Una classica ripresa a V dopo la fine del lockdown, collegata, secondo gli esperti, al rientro in patria dello shopping cinese, riflesso del rallentamento su altri mercati, Italia compresa. Da noi le vendite interne sono ben lontane dal compensare le perdite derivate dal turismo internazionale, da alcuni settori però arrivano segnali di ripresa. Lo rivelano i dati che vi raccontiamo tra pochissimo. Con il progetto Memoryscapes facciamo invece un salto nel passato, nella memoria collettiva degli italiani, attraverso il cinema privato, le riprese di famiglia che documentano i contesti in trasformazione della nostra quotidianità, dalle vacanze ai prodotti di consumo. Focus sui trend è dedicato infine a domesticità e gioco. Trascorriamo tutti molte più ore in casa, tanto vale divertirsi. Per questo scusi, senti che abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di avere molta gente a disposizione. Cosa? E le spiego perché. Noi spenderemo una sfacciata somma di denaro e abbiamo bisogno di gente che si spacchi in quattro, perché ci teniamo, capito? Oh. Signore, se mi permette, nel negozio giusto e nella città giusta quanto a questo. Qualunque cosa scelga qui sarà una gioia mostrargliela, ok? Ok. Mary Pat, sì. Mary Kate, Mary Frances, avanti, svelte, vediamo questo qualcosa. Questo è assolutamente divino. Mi scusi, signore. Sì? Esattamente, per sfacciata somma di denaro, che intendeva? Disinvolta o, diciamo, spudorata? Spudorata, diciamo. Quanto mi piace quest'uomo. Pretty woman, walking down the street. Pretty woman, the kind I like to meet. I don't believe you, you're not the truth. No one could look as good as you. Niente revenge shopping per gli italiani. La corsa agli acquisti non c'è stata. Secondo i dati Federmoda Confcommercio, il mese di agosto, mese dei saldi quest'anno, ha registrato flessioni che vanno dal 30 fino all'80%, più marcate nei centri delle grandi città, meno nelle periferie, nei piccoli centri e nelle località turistiche, dove si è anzi registrata qualche soddisfazione rispetto allo scorso anno. Qualche segnale di ripresa però arriva. I negozi fisici di articoli sportivi, arredamento e bricolage registrano vendite addirittura superiori rispetto al periodo pre-Covid, più 12, più 9 e più 2% rispettivamente. Lo rivelano i dati dell'osservatorio Stockard, l'applicazione che permette di digitalizzare tutte le carte fedeltà nel proprio smartphone. Leader di mercato, decine di milioni di utenti nel mondo, 8 milioni e mezzo solo in Italia, dei quali ha mappato i comportamenti d'acquisto nei negozi fisici prima e dopo il lockdown. Valeria Santoro è la Country Manager Italia. Noi abbiamo monitorato dall'inizio del Covid, quindi dalla settimana del 20 di febbraio, tutto ciò che è successo da lì in avanti ai consumi, monitorando appunto gli acquisti dei consumatori. E quello che vediamo è che nella settimana dell'ultima di agosto c'è un miglioramento anche di un po' tutti i settori. Ci eravamo lasciati alla fine di luglio con un'infografica in cui i dati più importanti riguardavano lo sport, l'arredamento e il brico. Tre settori che indubbiamente sono stati i nostri compagni durante il Covid, specialmente nelle fasi di lockdown, ma anche nelle fasi successive, perché tutti quanti abbiamo vissuto molto di più la casa e ci siamo presi cura della casa e del nostro corpo all'interno della casa, se vogliamo. Da lì la nascita del bisogno di comprare attrezzi per lo sport, ma anche quello di rimodellare gli spazi all'interno della casa, banalmente anche per adeguarli allo smart working. Questi settori hanno consolidato la crescita che si è sviluppata già da febbraio, arrivando addirittura a livelli pre-Covid, anzi superiori. Anche superiori. E quello che emerge invece con l'analisi di fine agosto è che il fast fashion, quindi altro settore importante, ha aumentato la propria quota di acquisti, arrivando al 90% di quello che avevamo pre-Covid. Stessa cosa per il pet, per il drag, ovvero per gli specializzati sui prodotti per la casa, per la pulizia della casa, e anche l'elettronica di consumo e banalmente le librerie hanno cominciato a, diciamo, riprendere ed avviarsi verso la linea pre-Covid. Quindi questi settori sono quasi vicini alla normalità, chiamiamolo così, al flusso che si è registrato prima di tutta questa emergenza. Interessante il dato anche sugli acquisti nei negozi di animali, che ci dice che coccoliamo i nostri conviventi, insomma, siano umani oppure animali, ecco, in questo caso. Quello è stato un dato molto interessante anche per me. Devo dire, non avevo la percezione anch'io di quanto il pet fosse cresciuto in Italia. Questo dato ci ha dato proprio la percezione di come gli italiani si siano presi cura dei loro animali domestici e di quanto sia diffuso appunto un animale domestico nelle case degli italiani. Per quanto riguarda la cura di sé, invece, Pharma e Beauty, che durante il lockdown avevano avuto grandi crescite, si sono stabilizzati. Allora, guarda, il Pharma insieme alla GDO sono due settori un po' da considerare a parte. Perché? Perché sono due settori che sono rimasti aperti come il pet durante il lockdown, e che nonostante la decrescita della frequenza di acquisto in negozio dovuta al contingentamento banalmente, hanno, diciamo, avuto un assalto immediato e quindi un aumento dello scontrino medio proprio dovuto alla situazione. Sono due settori che hanno bilanciato frequenza con scontrino medio, mentre cosa a parte, e secondo me il settore più indicativo dello stato dei nostri consumi in questo momento è il beauty. Perché dico questo? Non è un settore di beni primari, più lontano quindi dai prodotti necessari, più vicino se vuoi al lusso come comportamento di acquisto. Il fatto che si stia riprendendo anche il beauty, e siamo passati l'ultima settimana di luglio al 51%, siamo passati al 60% l'ultima di agosto, significa che gli italiani stanno riprendendo anche un settore che non è primario, e questo è molto importante perché rappresenta la fiducia e la speranza degli italiani. Cambiamo argomento, parliamo di un bellissimo progetto, si chiama Memoryscapes, è promosso da Home Movies, Archivio Nazionale del Film di Famiglia di Bologna, è la prima piattaforma digitale dedicata al cinema privato, una serie di percorsi tematici e geografici attraverso un'Italia perduta e ritrovata nelle immagini dei cineamatori, frutto di un lavoro quasi ventennale di digitalizzazione delle pellicole private girate tra gli anni 20 e gli anni 80 del secolo scorso. Si tratta di 30.000 pellicole fatte in casa dagli italiani, un racconto per immagini in cui riscoprire le storie dei singoli e delle comunità attraverso gli elementi della loro quotidianità, l'abbigliamento, le acconciature, poi gli oggetti domestici, la tecnologia, le auto, la città e le sue trasformazioni. Dall'arredo urbano, basti citare le cabine telefoniche, alle pubblicità lungo le strade. Un racconto in cui è facile ed emozionante riconoscersi. Tra poco ci illustrerà il progetto il curatore Paolo Simoni, subito dopo la pausa. Restate con noi. Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta Essere e Avere. Di nuovo in studio con Essere Avere, fatta anche di memorie di consumo, prodotti, oggetti, marche, abitudini. L'Italia inedita raccontata da Memoryscapes, prima piattaforma digitale dedicata al cinema privato, le riprese di famiglia. 1000 i brevi filmati disponibili per le prime due serie, un viaggio che passa attraverso la Mille Miglia storica, il Giro d'Italia, il primo traffico cittadino anni 50 e poi le strade vuote durante l'austerity, i canti per la liberazione fino alle proteste studentesche, i viaggiatori anni 20 oppure le donne in costume sulle spiagge anni 30. Paolo Simoni è il direttore dell'Archivio Nazionale del Film di Famiglia, responsabile del progetto. Memoryscapes è il frutto di un lungo lavoro che l'archivio Home Movies di Bologna porta avanti da quasi 20 anni, di raccolta, digitalizzazione, catalogazione e valorizzazione di un immenso patrimonio, quello costituito dai film amatoriali e familiari, cioè tutto quello che è stato prodotto nel Novecento nell'ambito delle famiglie, negli ambiti privati e che corrisponde, diciamo, a una visione della nostra storia, della storia del Novecento, appunto privata, non ufficiale. È tutto quello che noi siamo abituati a vedere attraverso i media, il cinema, la televisione e così via, è filtrato, soprattutto in certe epoche storiche, dal fatto di essere stato realizzato da professionisti all'interno di un'industria, all'interno di una comunicazione pubblica, e invece con questi film noi possiamo vedere l'aspetto più nascosto della storia. Come sappiamo, le famiglie utilizzavano questi strumenti che all'epoca erano i primi, no? Prima c'è stata la fotografia, poi alla fotografia si è dato il movimento attraverso il cinema e attraverso i formati ridotti. Chiunque poteva riprendere se stesso, la propria vita, le prime vacanze. Dagli anni 50 in poi soprattutto il nuovo status dettato dal boom economico e autorappresentarsi, raccontarsi attraverso la cinepresa. Ecco, a distanza di tempo questo materiale è prezioso per rileggere la nostra storia, vedere anche, come dire, quello che è lo sfondo, no? Le trasformazioni del paese, del paesaggio, le trasformazioni urbane, le trasformazioni degli stili e dei modi di vita. Quindi dall'abbigliamento ai prodotti, ai prodotti appunto della casa, insomma, immagino che sia veramente un racconto anche economico e di contesto dell'Italia. Come l'avete arricchito? Da dove arrivano tutti questi filmati? Noi abbiamo raccolto per lungo tempo questi materiali. Ci siamo resi conto della sua importanza sul piano storico e ci siamo resi conto anche della mancanza in Italia di qualcuno che si occupasse di salvare questo patrimonio. Questo è stato il presupposto del nostro progetto, che prima di tutto è un archivio, l'Archivio Nazionale del Film di Famiglia, dove sono confluiti fondi filmici privati di migliaia di italiani provenienti da tutta Italia. Memoryscapes rappresenta una tappa attraverso la quale questo patrimonio è facilmente accessibile. Si tratta di selezioni d'archivio, brevi clip tratte da fondi che hanno una durata molto maggiore. Noi conserviamo migliaia e migliaia di ore di pellicole. Memoryscape permette, attraverso una piattaforma digitale, di accedervi liberamente e molto facilmente. Sono come dei tasselli di un quadro più ampio. Noi intendiamo Memoryscape come un mosaico di tanti sguardi individuali, privati, personali, che insieme diventano memoria collettiva e l'utente può scoprirli casualmente o attraverso le ricerche che la piattaforma permette. Certamente le immagini del passato ci aiutano ad avere più consapevolezza di noi stessi, ci aiutano a riscoprire le nostre origini e la nostra storia, devono comunque essere continuamente lette e rilette. Noi vediamo il boom economico attraverso i film di famiglia, un'epoca di grande ottimismo, trasformazione e positività rispetto al futuro, e certamente questo è un elemento. Ma vediamo anche un'Italia che si trasforma e in qualche modo viene distrutta. Si costruiscono le strade, le autostrade, le automobili cominciano a circolare copiosamente, ma noi sappiamo a distanza di tempo che questo è stato anche un'evoluzione del nostro paese che ha portato alla distruzione dell'ambiente, all'inquinamento e a tutti i problemi che oggi noi vediamo e viviamo. Focus sui trend. Aumentano le vendite dei prodotti per la casa, arredamento, ma non solo, fai da te, pulizia, elettrodomestici, giardinaggio, solo per citare alcune di queste categorie, la domesticità guadagna una nuova centralità nelle nostre vite, anche nella sua dimensione ludica, perché diciamo così, se a casa dobbiamo stare, tanto vale divertirci. È la tendenza che abbiamo individuato insieme a Isabella Guaitoli di Future Concept Lab. Ciao Isabella. Bella, bentrovata. Ciao Maria Luisa, buonasera a tutti. Partiamo da uno dei brand simbolo quando parliamo di giochi, di giocattoli, è un vero e proprio cult che ora allarga, per così dire, le collaborazioni ad ambiti diversi. Uno di questi è proprio la casa, l'arredamento. Di chi parliamo? Parliamo di Lego, che ha collaborato con IKEA per creare Big Lek, questo nome svedese, che appunto sarà una collezione in vendita da IKEA a partire dal mese prossimo. Una collezione di scatole, ma sono scatole speciali perché fungono sia da contenitori che da superfici di gioco per Lego, perché sono scatole bianche e hanno la parte anteriore e superiore con le tipiche borchiettine dei Lego su cui i bambini possono così costruire le loro creazioni. E le scatole così possono essere sia espositori che contenitori. Big Lek è interessante proprio perché mette insieme, no, queste due esigenze opposte che abbiamo visto come convivono, in particolare nel lockdown, nelle nostre case, no? La voglia di creatività e di disordine, diciamo così, dei più piccoli, ma anche la necessità di un po' d'ordine invece dei più grandi. Il prossimo è un altro caso assolutamente originale, geniale, le parole chiave sono riutilizzo, antispreco e creatività, raccontaci. Stiamo parlando di Out of the Box, che è un concorso che hanno lanciato insieme ad aprile Samsung e Design. Design è una famosissima rivista online di architettura e di design da 2 milioni di visitatori unici al mese. Hanno lanciato un concorso globale alla ricerca di progetti innovativi per la casa che però abbiano la caratteristica di sfruttare gli imballaggi in cartone dei prodotti Samsung. Il progetto che ha vinto si chiama Endangered Animals e si tratta appunto di una serie di animali in via di estinzione, un orso polare che può essere fatto dalla scatola della TV verticale di Samsung, Vessero, un rinoceronte che può essere invece costruito sfruttando la scatola di Vesserif, che è la televisione firmata dai fratelli Burulek, e una tartaruga marina che può essere costruita con la confezione di un altro prodotto, di un'altra televisione che si chiama The Frame. Possono essere fatti in modo molto semplice, sono stati progettati per sfruttare al meglio, sfruttare il più possibile tutto il cartone, non c'è bisogno di utilizzare la colla e quindi anche l'assemblaggio è molto facile e accessibile ai bambini che poi potranno utilizzarli per cavalcarli, per esempio, oppure come contenitori dei giochi. E quindi insomma un progetto divertente ma anche molto costruttivo ed educativo. Le immagini come sempre sulla nostra pagina Facebook. Durante il lockdown il mondo gaming, quello digitale ma anche tutto l'universo dei cari vecchi giochi in scatola ha avuto una fortissima crescita. Il prossimo è un gioco creato proprio durante il confinamento, un gioco in questo caso che combatte la disinformazione. Si tratta di Quarantrivia, che è un gioco a quiz online e gratuito ed è stato ideato e realizzato da una studentessa dell'Università di Waterloo in Canada insieme al suo professore di biologia, che hanno pensato, come hai detto tu, di cercare di combattere la disinformazione, in particolare appunto sul Covid-19. I giocatori devono rimuovere un virus da Pixel World collaborando con Dr. Pixel e rispondendo a una serie di domande a scelta multipla. Se la risposta è sbagliata, il gioco visualizza la risposta corretta ma propone anche proprio dei link di siti certificati dove si possono trovare chiarimenti e approfondimenti. I round di gioco, come si può immaginare, sono molteplici, sono tanti. Il punteggio finale viene poi calcolato e dato alla fine del gioco, così che, come in tutti i videogiochi, è possibile poi anche gareggiare con gli amici e con i familiari. Isabella Guaitoli, grazie. Alla prossima. Grazie a te, arrivederci a tutti. Il consumautore. Si dice che non avete un lavoro, non avete una moglie, non contribuite in alcun modo alla crescita dell'Italia fascista. Roma non si parla altro che di voi. Corso d'argento come miglior attore a Elio Germano al Festival di Berlino, uscita a marzo, penalizzata dal lockdown, tornato in sala a fine agosto. Volevo nascondermi, è il film che racconta la storia del pittore e scultore italiano Antonio Ligabue. Partiamo da qui per la nostra riflessione finale in compagnia del sociologo dei consumi Francesco Morace. Ben trovato Francesco, perché questa scelta? Buonasera Maria Luisa. Allora, intanto perché tornare al cinema in questo momento è anche un appello a tutti i radioascoltatori, naturalmente in sicurezza, ma adesso veramente credo che questo sia importante. Il film è bellissimo, l'interpretazione di Elio Germano è veramente sontuosa e soprattutto il personaggio, no, è straordinario. Antonio Ligabue è sempre sul filo anche della, non solo della diversità, ma anche della difficoltà di vivere, ma poi soprattutto questa terra che viene filmata in modo straordinario usando gli stessi colori che usa anche il pittore. Quindi ecco, questa energia di cui oggi abbiamo davvero bisogno, una terra potente, verace, e anche la riscoperta di un'Italia minore, no? Che abbiamo detto tante volte, oggi è la grande risorsa anche per nuove forme di turismo. Ti propongo anche una sottolineatura sullo stile naif, quasi più in sintonia oggi rispetto ad un tempo con l'immaginario estetico, questa potenza che hai detto, questi colori vivaci, contorni definiti, queste forme poetiche, insomma un grande anticipatore Ligabue in questo senso. E forse possiamo anche dire che la nuova normalità si tinge anche di queste coloriture, no? E l'idea che quello che noi viviamo quotidianamente, anche nel film questo viene sottolineato, ha un valore, una forza che spesso dimentichiamo. Se c'è una cosa che la quarantena, la pandemia ci ha insegnato, è invece proprio questo saper rivalutare momenti, esperienze che davamo per scontate, che per noi erano quasi banali. E poi grande messaggio del film, l'inno alla diversità, all'inclusione, così fondamentali oggi nei consumi, nella cultura, nella comunicazione. Fondamentale questo rimescolare le carte, questo partire dalla particolarità magari anche dei diversi genus loci, no? Quindi dei diversi caratteri che a volte possono sembrare fuori quadro, no? Questo tra l'altro è un'espressione che nel film viene utilizzata, fuori quadro, con però questa capacità di cogliere la ricchezza della diversità, l'ascolto e riuscire, questo lo dico anche per le aziende, a comprendere che non tutto può essere controllato, manipolato secondo gli schemi classici, ma che oggi la differenza davvero viene fatta dall'eccezione. Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.